La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, 16:30 primi 17 secondi, in diretta dallo studio di Milano. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto in diretta in podcast. E vi ricorda, poiché come vedrete anche la trasmissione di oggi nasce da una segnalazione di un'ascoltatrice che è qui con noi, l'indirizzo per segnalare problemi, storie da raccontare, vostre testimonianze, oppure chiedere, io rispondo a tutti. E l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it. Scusate, ahimè. Di cosa parliamo oggi? Di quello che ai miei occhi appare una specie di mistero della fede, o meglio, dirò che naturalmente io penso male, ma è sbagliato pensare male per definizione, e quindi la faccenda è questa. Partiamo da tre problemi aperti, di pezzi fondamentali dello Stato. Stiamo parlando delle agenzie tributarie, che dopo la pronunzia, di cui ho parlato molte volte nei mesi, della Corte Costituzionale, tra un po' faranno due anni quasi, sulla illegittimità dei dirigenti delle agenzie tributarie, in particolare di Agentrate, ma non solo di Agentrate, nominati senza concorso, quindi in violazione di ciò che prescrive la nostra Costituzione, ebbene ci sono problemi che restano aperti. Dopo il braccio di ferro che l'Agenzia delle Entrate ha fatto, dicendo, vi ricordate la storia, per mesi un braccio di ferro rispetto alla sentenza della Corte, dicendo questo ci impedisce l'operatività, ma noi abbiamo un'autonomia concessaci con l'istituzione delle agenzie e così via, ci vuole una professionalità tale che noi possiamo ricorrere solo con nomine di altro tipo e non quello per il concorso. Dopo tutto questo braccio di ferro si è proceduto comunque a nomine temporanee per garantire l'operatività nelle agenzie, e naturalmente però doveva essere vigente l'obbligo di organizzare un reclutamento per concorsi. Allora, quali sono i tre punti da cui partiamo? E io ve li ricordo perché poi arriviamo invece alla questione. A questo punto l'Agenzia delle Entrate riesuma un concorso a 175 posti da dirigente che, pensate, era stato bandito nel 2010 e che però era stato annullato per le modalità con cui era stato bandito dal Consiglio di Stato. Fa un'interpretazione all'Agenzia delle Entrate a seguito della sentenza della Corte Costituzionale come se fosse autorizzata a riesumarlo, e malgrado il dispositivo di legge post sentenza della Corte Costituzionale dicesse chiaramente che le agenzie erano autorizzate ad annullare le procedure concorsuali bandite e non ancora concluse, mentre doveva indire nuovi concorsi, riesuma quello su cui si è pronunciato contrariamente con il Consiglio di Stato e convoca, e esposto avverso a questa decisione dell'Agenzia delle Entrate, e il Consiglio di Stato il 6 ottobre dice: neanche per idea, cara Agenzia delle Entrate, non potevi farlo, non puoi farlo. Primo fatto. Secondo fatto, a quel punto c'è un altro concorso che l'Agenzia delle Entrate invece aveva bandito due anni e mezzo fa, nella primavera del 2014, e a questo punto, anche di fronte a quello, però, si pronuncia il TAR del Lazio. In questo caso erano 403 posti di dirigenze, e questa pronuncia c'è stata il 20 di settembre, e anche in quel bando il TAR dice: no, voi non rispettate quanto c'è scritto per legge, non potete avere una riserva interna al 50% dei posti per chi è già dell'agenzia. Secondo incidente, per così dire. Terza pronuncia, questa è stata depositata dal Consiglio di Stato venerdì della settimana scorsa, ed è relativa a un'istanza che veniva dal TAR che chiede al Consiglio di Stato di pronunziarsi se anche i dirigenti a tempo attuali dell'agenzia pongano problemi oppure no. Il Consiglio di Stato risponde al TAR dicendo: mica è escluso, caro TAR, esamina tu l'ipotesi di adire direttamente alla Corte Costituzionale. Questa la fotografia delle condizioni in cui l'Agenzia delle Entrate, quella che fa giustamente, no, le prediche a noi che siamo contribuenti non etici, la lotta all'evasione eccetera eccetera, a distanza di tempo ormai molto lungo dalla sentenza della Corte Costituzionale, sta in relazione ai suoi dirigenti pro tempore che secondo il Consiglio di Stato pongono comunque problemi di costituzionalità alla luce della sentenza della Corte, e rispetto ai due tentativi di riesumare concorsi precedenti a fronte di chiari giudizi contrari da parte del giudice amministrativo, e nel frattempo però non bandisce un concorso nuovo. A questo si aggiunge poi che anche l'Agenzia delle Dogane ha un concorso in corso per 69 posti dirigenti, e qui addirittura è arrivata la Procura, la Guardia di Finanza la settimana scorsa a sequestrare i documenti per correzioni non collegiali degli elaborati, segnalazioni eccetera eccetera, e quindi questa è la fotografia. A fronte di tutto questo ci sono dei funzionari pubblici che hanno svolto dei concorsi e li hanno superati e sono lì che aspettano. Ma allora, prima domanda, ma perché non fare giustamente riferimento a chi i concorsi intanto li ha fatti e aspetta, non si capisce cosa? Ecco, come sta in piedi tutta questa contraddittoria vicenda di una pubblica amministrazione che sfida l'incostituzionalità di dirigenti con cui è andata avanti per anni, non tali per concorso superato, che tenta di riesumare procedure sulle quali già il giudice amministrativo l'aveva stoppata, oppure sulle quali intervengono le procure per ristopparla per gravissime violazioni che a questo punto sono penali, come l'Agenzia delle Dogane, quando c'è un bacino di persone qualificate che i concorsi li hanno vinti? Allora, io a questa domanda, dirvi la verità, non so rispondere, ma questo interrogativo ci è stato appunto segnalato da un'ascoltatrice che è con noi, perché ci ha scritto una lettera esattamente partendo dal suo caso, cioè di una funzionaria pubblica che di concorsi ne ha fatti due ed è risultata idonea in due casi, e però non si riesce a capire perché, pur avendo fatto concorsi, è risultata idonea in questi due casi, non faccia l'uopo per le necessità di queste branche della pubblica amministrazione così importanti e che continuano a essere una situazione di illegittimità manifesta, palese, ma non perché lo dico io, perché l'ha detto la Corte Costituzionale, il TAR del Lazio, il Consiglio di Stato. Allora, grazie alla nostra ascoltatrice Assunta Muroni che ci ha sollevato il suo caso personale per parlare però, come vedete, di una questione che investe la legittimità della vita di tutti noi contribuenti, e non solo contribuenti, perché questa situazione, che è particolarmente grave alle agenzie tributarie, però non è presente solo in quella parte della pubblica amministrazione. Buon pomeriggio e grazie all'Assunta Muroni. Buon pomeriggio a lei, Oscar Giannino, a tutti i radioascoltatori. Allora, sono Assunta Muroni, sì. Mi ha presentato, ha fatto una disamina attenta e precisa. Io seguo spesso questa trasmissione interessantissima e quindi mi sono permessa di segnalare il problema, perché è giusto che i suoi radioascoltatori e i cittadini sappiano delle anomalie, diciamo, del sistema. Situazioni paradossali al limite del grottesco. Allora, partiamo dai suoi. Esatto, questa è una, non abbiamo alcuna pretesa di esaminarle varie tutte. Poi abbiamo anche un altro ospite, perché è un altro ospite che con la sua federazione di associati del pubblico impiego, Dir Pubblica, e questa la Dir Pubblica è molto attiva nel battersi su questi argomenti, ed è con noi appunto Giancarlo Barra. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, grazie dell'ospitalità, un saluto a tutti i radioascoltatori e alla collega che mi ascolta. Allora, Assunta Muroni, partiamo raccontando ai nostri ascoltatori lei questi concorsi, quando li ha fatti, come li ha superati, eccetera. Allora, io ho superato due regolari concorsi pubblici per dirigente, sì. Uno nel lontano 2009 a questo punto, presso il Ministero del Lavoro, e l'altro presso l'ex autorità di vigilanza dei contratti pubblici, che oggi è l'ANAC, la famosa autorità anticorruzione. Questo nel 2013, e quindi ho dimostrato, sono idonea e ho dimostrato di essere preparata, quindi di ricoprire legalmente un ruolo dirigenziale. Tengo a precisare che come me ci sono altre persone che hanno più idoneità o anche una sola idoneità, e quindi sono preparati ma non ci assumono. Preciso che è faticoso superare un concorso e abbiamo sostenuto prove scritte, almeno due temi in materie giuridiche, poi ci sono dalle 9 alle 12 materie agli esami orali, quindi sono veramente grandi sacrifici, un impiego di tempo, di fatica, anche di denaro, perché io e altri abbiamo seguito corsi di aggiornamento e li continuiamo a seguire, perché tanto bisogna sempre aggiornarsi. Quindi ho dimostrato di essere capace, idonea, sono stata valutata da commissioni concorsuali e mi vedo scavalcare da persone che il concorso non solo non l'hanno mai superato, ma non l'hanno proprio mai fatto. E questo è il paradosso. E quindi, come giustamente le diceva, è un qualcosa che contrasta con la Costituzione. Si parla di buon andamento e di imparzialità, si parla di accesso agli incarichi pubblici mediante concorso. Niente di tutto questo. Qua vengono attribuiti gli incarichi e il riferimento preciso che le ha fatto, perché là siamo proprio, sono situazioni al limite del paradosso, l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Dogane attribuiscono incarichi a funzionari che non hanno partecipato a nessun concorso. Allora chiaramente si pone il dubbio, ma come si ragiona? Come mai non solo si va contro la legge, contro la Costituzione, ma contro anche le svariate pronunce che ci sono state, perché come le ha indicato il TAR si è espresso in senso contrario a che questi funzionari continuassero a svolgere illegittimamente queste funzioni dirigenziali, il Consiglio di Stato idem, poi è stata scomodata anche la Corte Costituzionale. E a questo punto stiamo parlando del lontano marzo del 2015. Io ho un sospetto. Provi perché, a dirmi qualcosa. Perché le graduatorie dei concorsi vigenti della PA, siccome c'è la riforma Madia, quindi i decreti attuativi, cambia il contratto unico per i dirigenti, ne abbiamo già parlato in questa trasmissione, poi ne riparleremo ovviamente, per visto i problemi che sono aperti, perché io sfido chiunque a spiegarmi come le tre commissioni per la valutazione dei criteri dei salari di merito, composte da 7 persone, potranno davvero stabilire le modalità per funzioni dirigenziali così diverse come sono all'interno della PA. Ma detto questo, io ho il sospetto che siccome le graduatorie che sono vigenti sono pubbliche, ciascuno di voi può andare sul sito che trovate, la piattaforma della graduatoria è www.monitoraggiograduatorie.gov.it, quindi sono, ovviamente sono risultati di concorsi pubblici, le risultanze sono pubbliche, però io ho il sospetto che siccome le graduatorie vigenti scadono alla fine di quest'anno per via della riforma, è per questo che vi tengono lì e tanto tutto quello che avrete fatto non varrà più niente. Mi sbaglio, secondo lei è un sospetto infondato? Fondato. Il problema è che le graduatorie vigono da diverso tempo e nessuno ha mai pensato di attingere alle graduatorie. Ma perché? Io non posso che pensare male, per ragioni di clientelismo, perché comunque attribuire gli incarichi di vertice a persone, diciamo, amiche oppure persone che comunque non possono brillare per imparzialità, perché hanno sempre da dire grazie a qualcuno, a differenza della sottoscritta e degli idonei, questa è la motivazione fondamentale. Sì, ma perché però, la situazione di emergenza... Però lei capisce, lei è un funzionario pubblico, il solo fatto che sia portata a pensare così, io sono un qualunque cittadino, un giornalista, i giornalisti pensano male, però detto da un funzionario pubblico amareggia ancora di più. Del resto io lo capisco, lei i concorsi ci ha creduto, li ha fatti, li ha superati, esatto, alle idoneità, e dice ma allora perché, se noi siamo un esercito, dico, una compagnia selezionata di persone con i titoli acclarati nelle prove di concorso, perché non attingete da noi? Allora io, fermiamoci qua un secondo, sentiamo intanto qual è l'opinione fino a questo momento su tutto quello che abbiamo detto di Giancarlo Barra di Dir Pubblica. Che ci dice? Allora Oscar, Giannino, qui si incrociano due situazioni paradossali. Come lei ha già accennato, dopo la sentenza 37, tutta l'attività delle agenzie fiscali e purtroppo del governo e del Parlamento è stata quella non di sanare immediatamente la situazione, esatto, come si sarebbe potuto fare con una semplice telefonata da parte di Palazzo Chigi, no. Perché telefonata? Bastava telefonare e dire ragazzi guardate che qui dovete fare un concorso fatto bene, ecco. Ci avete l'autonomia, fatelo immediatamente, altrimenti provvedo io. Ecco, invece questo non è accaduto, c'è stata addirittura una produzione legislativa per ripristinare Subettiziamente la situazione antecedente alla sentenza 37, ed è la legge a cui ha fatto riferimento lei, che istituisce le porte, ma che comunque dava un obbligo pubblico una facoltà alle agenzie, cioè quella di fare un nuovo concorso entro il 31 dicembre da completare, non da bandire, da completare. Entro il 31 dicembre e loro 2016. Non lo hanno fatto. Invece non lo hanno fatto. Ma perché? Non lo hanno fatto perché vogliono consolidare, esatto, la situazione che c'era prima. Quindi anche lei dice ha questa impressione. Ma a quel punto io ne sono certo. Ah, esatto. Altrimenti, cioè, voglio dire, qualsiasi altro soggetto, sebbene magari non al dentro della situazione, avrebbe compreso che bisognava fare qualcosa di nuovo. Ma l'altra situazione, sì, paradossale è quello che dice la collega: noi abbiamo non solo idonei ma anche vincitori, certo, di concorsi, vincitori idonei, ecco, che non vengono assunti, e lei si chiede, e guardi che non solamente nell'ambito della dirigenza, perché per quanto riguarda che la sono 387, se non sbaglio, 400, esatto, persone, poi ci stanno migliaia di persone che non riguardano la dirigenza, tutte le altre qualifiche, a cominciare dai disabili nel comune di Roma. Ecco, ma per chi ha superato i concorsi, perché lo Stato non attinge secondo di là? Secondo me, è quello che dice, confermo quello che dice la collega, se lo sa, perché io l'ho già detta questa cosa, perché l'idoneo è molto più libero del vincitore. E vabbè, ma ho capito, ma allora è come ammettere che viviamo con delle procedure viziate. Questo è il problema. Noi stiamo cercando nelle agenzie, no? L'agenzia cerca di avere persone che dicono sì. Ma non solo l'agenzia, ma anche il Ministero del Lavoro, anche il Ministero della Giustizia, cioè si fa ricorso agli incarichi esterni, perché il concorso comunque rende un soggetto che brilla di luce propria, ma perché a un certo punto... Ma è come se entrambi mi stesse dicendo, e stesse dicendo non a me ma agli ascoltatori, che l'articolo 87 della Costituzione, quello che stabilisce che la pubblica amministrazione è autonoma e indipendente, nella realtà di fatto non solo l'Agenzia delle Entrate ma nei ministeri e così via, è carta straccia. Voi ci state dicendo questo, Barra? Non è carta straccia perché ci consente comunque a delle forze non allineate di insorgere e di arrivare in Corte Costituzionale. Se non ci fosse quell'articolo, esatto, non lo potremmo fare. Bravo. Quindi tanta carta straccia non è, però voglio dire, proprio le amministrazioni che dovrebbero essere gelose del rispetto della legge o seguenti alla giurisdizione sono le prime che insorgono e fanno di tutto per eludere norme sentenze. Questa è una cosa da insurrezione, cioè non voglio dire, qui si sta travolgendo la Costituzione prima ancora di cambiarla. È un fatto gravissimo che le istituzioni dovrebbero veramente insorgere. Noi abbiamo sentito parlare dell'ANAC, ma in tutta questa storia io l'ANAC non l'ho mai sentita. Aspetti, l'ascoltatore mi dice, ha ragione, ho detto 86, è 97 della Costituzione, scusate, sì, perché mi è sfuggito di bocca una cosa per l'altra. Lei dice l'ANAC su questo? Non l'ho mai sentita parlare, cioè voglio dire, come mai che non è mai intervenuta su una situazione così grave? Perché poi la collega faceva riferimento alle numerose dannosità alla legge, all'economia che ne provoca questa situazione, ma non pensiamo anche alla dannosità alle persone. Lei consideri che oggi quando si fa un concorso, magari per pochi posti, intervengono migliaia di soggetti, sì, sì, certo, migliaia, certo, di soggetti che aspirano giustamente a migliorare la propria posizione, e noi ci permettiamo il lusso di mandare tutto per aria. Sì, sì, di fare come se non ci fosse mai stato. Aspetti, la devo interrompere, poi riprendiamo con entrambi, con Giancarlo Barra e Assunta Muroni, ci abbiamo l'informazione di servizio sul traffico. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, siamo partiti dal problema dell'Agenzia delle Entrate. La Corte Costituzionale, come ricordate, ha detto i vostri dirigenti nominati senza concorso non vanno bene, perché la Costituzione si rispetta, viene data la facoltà di indire concorsi, l'Agenzia non ne fa uso, tenta di riesumare due concorsi sui quali già il giudice amministrativo ha detto no, li avevate banditi in una maniera che non è coerente alle norme, e dall'altra parte ci sono centinaia di vincitori idonei di concorsi che si sono tenuti, che dovrebbe essere la modalità seguita nella pubblica amministrazione per nominare i dirigenti, che sono lì da anni ad aspettare, però nessuno li chiama, né i vincitori né gli idonei, e non si capisce perché. Assunta Muroni, ascoltatrice che ci ha scritto ed è con noi, ci ha raccontato la storia di questi suoi due concorsi, dice: ho l'impressione che chi ha vinto un concorso sia troppo indipendente per essere davvero chiamato alle funzioni dirigenziali, e il segretario generale di Dirpubblica, che è con noi ed è protagonista con le sue associazioni molto impugnative su questa storia del rispetto della costruzione della legge per i concorsi e le dirigenze pubbliche, ci dice: beh, abbiamo l'impressione che sia esattamente la stessa cosa. Allora sentiamo due ascoltatori e poi torniamo ai nostri due ospiti. Iniziamo con Paolo, che ci chiama dalla provincia di Alessandria. Paolo. Buongiorno a lei. Sì. Io ho fatto il direttore, ora sono in pensione, il generale di un'azienda ospedaliera di Alessandria per 10 anni. Ho partecipato nel lontano 94 a una selezione con una graduatoria, e senta bene il termine, graduatoria. Sono arrivato su 400 iscritti partecipanti secondo, e allora non fui nominato. Dopodiché ci fu un ricorso da parte di chi era nell'ordine dei primi 25 direttori che avrebbero dovuto assumere l'incarico, e fui nominato successivamente con ordine del giudice. Dopodiché il Piemonte non ha più fatto questo errore, non ha più fatto concorsi per graduatorie ma per idonei, cioè quello che sta dicendo lei, in modo tale che hanno preso chi volevano, mettendo praticamente quasi tutti idonei, così come avevano voluto fare, e poi sono stati condannati dal magistrato prendendo il 300° o il 400° della graduatoria precedentemente, quindi scegliendo in modo... Quindi l'esperienza di Paolo, settore ospedaliero pubblico, è che la discrezionalità per la conformità e obbedienza, chi comanda pro tempore, l'ha vista operare. Carlo da Milano che ci dice? Buonasera Giannino, la mia impressione è che manca un po' il senso di responsabilità in Italia, un po' su tutto. Nel senso che se si fanno i concorsi come qualsiasi altro atto amministrativo o qualsiasi altro ruolo di responsabilità pubblica, in realtà chi cacchio paga quando succede un qualcosa come per esempio quello di cui stiamo parlando? Sì. Cioè è vero che i responsabili o comunque i soggetti che sono chiamati, no, a indire un concorso, a essere giudici, eccetera, eccetera, quando rispondono? In che metodo, in che modo rispondono? Adesso, ho l'impressione che in Italia, come in qualsiasi altra cosa, si facciano grandi leggi, si stia a fare grandi dibattiti, però poi sul piano poi lei dice sull'esecuzione non risponde nessuno. Però Carlo, qui stiamo parlando del fatto di prove regolari di concorso, alla proclamazione dei cui risultati non segue ciò per cui il concorso è stato bandito, mentre invece esistono dirigenti nominati senza concorso e tentativi, dopo reiterati interventi del giudice amministrativo e costituzionale, di persistere su quella strada. Quindi in questo caso non siamo su irregolarità dei concorsi, siamo di fronte a decisioni di vertici dei pezzi dello Stato che non tornano rispetto alle leggi, ai principi dell'ordinamento e alle leggi. Assunta Moroni ci ha detto che avete scritto, molti di voi nella sua stessa situazione, Assunta, avete scritto a dei parlamentari, ma avete ottenuto risposta? Io personalmente nessuna, non ho avuto notizie da parte degli altri partecipanti al blog, quindi mi sembra di capire che ci stanno un po' trascurando, però tengo a precisare che io non voglio essere così pessimista, nonostante ciò ho una speranza, penso che l'unica soluzione legittima e con il massimo contenimento della spesa sia adesso l'adozione di un decreto legge che il governo senta, vista l'urgenza, l'emergenza che a questo punto si è venuta a creare, che imponga a questo punto a tutte le pubbliche amministrazioni che hanno carenze in organico di far scorrere le graduatorie, quindi di attingere dalle graduatorie attualmente vigenti e monitorate presso la funzione pubblica, e imponga questa volta, non facoltizzi semplicemente, le convenzioni tra le pubbliche amministrazioni, perché ci sono le pubbliche amministrazioni che hanno una graduatoria vigente, altre che invece non hanno espletato un concorso. C'è questa possibilità che in situazioni di tale emergenza si possa fare così, certo. Si possa fare. Allora, vediamo, io dagli elementi che ho, ma qui è elemento di incertezza ai giornalisti, so che le agenzie delle entrate non ci pensano proprio. Questa è la mia, ho degli elementi in mano, per cui parlando con chi, quei pochi di lì che mi parlano, dicono: no, noi abbiamo un altro indirizzo e il governo sa che non ci può fare questo per la delicatezza delle funzioni che svolgiamo. Vedremo, perché sennò ci sarà altre cose da fare di fronte al giudice amministrativo per Dirpubblica e per Giancarlo Barra e chi con lui si fa queste battaglie di trasparenza per tutti noi. Grazie ai due ospiti, continuate su Radio 24, appuntamento alle 8:20 domani mattina con me, Alessandro Minella, attenti noi due.